Non stupiscono in realtà, perché è un trend stabile negli ultimi anni. Quello che colpisce è che rispetto all'anno scorso c'è stata una crescita delle dimissioni volontarie. Ho sott'occhio i dati del 2021, perché questi che noi vediamo si riferiscono chiaramente al 2022, e quelli precedenti che sono riportati sul report Save the Children, le equilibriste, ci parlavano di 37.660 dimissioni volontarie da parte delle neomadri nel 2021, quindi siamo passati da queste 37.700 a 43.300, quindi sono decisamente cresciute. Sono cresciute anche le dimissioni maschili, che l'anno scorso erano 14.800, quest'anno sono 16.161. Rimane sostanzialmente stabile, cresce solo di un punto percentuale la percentuale femminile per questa tipologia di recesso, che è ora al 73%, quindi sostanzialmente rimane decisamente più alta la percentuale di neomadri che rinuncia al lavoro nei primi 3 anni di vita del figlio. Un dato interessante che emerge è che riguarda soprattutto il primo figlio, perché donne con più figli in realtà questo fenomeno c'è meno. Cosa può essere dovuto questo? Un po' è dovuto alle necessità economiche, quindi è più difficile sostenere una famiglia più numerosa senza avere almeno 2 stipendi. Diciamo che chi rinuncia al lavoro lo fa da subito nel momento in cui entra nel mondo della maternità, se non lo fa rimane ancorata anche a questa dimensione di vita. Non stupisce moltissimo, devo dire, dal punto di vista appunto sociologico, per questi motivi. Quello che colpisce sempre è la differenza nei motivi per cui i neopadri piuttosto che le neomadri lasciano il lavoro. Gli uomini lasciano soprattutto per passare a un'altra azienda, quindi questo ci fotografa ancora una volta una disparità di genere. Esattamente, gli uomini lasciano il lavoro quando diventano neopadri per cercare opportunità, perché trovano opportunità migliori. Queste opportunità migliori lo sono dal punto di vista economico, lo sono in termini di progressione di carriera, talvolta implicano anche l'allontanamento rispetto al nucleo familiare pur di avere questo tipo di vantaggi, mentre per le donne la dinamica all'allontanamento dal lavoro è il prendersi la responsabilità della cura non retribuita nell'ambito domestico. Ma questi fenomeni cosa sono dovuti? Una carenza di servizi? Anche a una carenza di servizi. Da una parte c'è esattamente questa dimensione, quindi il fatto che esistano pochi servizi per esternalizzare la cura, lo sappiamo bene, sappiamo anche dell'investimento fatto in questa direzione con i fondi PNRR, in cui però c'è stato un taglio di posti di recente, ma anche al costo di questi servizi quando anche sono presenti. Dall'altra parte, e questa è una disparità diciamo anche geografica, in particolare al sud Italia c'è ancora una difficoltà a esternalizzare la cura, e quindi c'è ancora più interiorizzata il fatto che siano le donne a doversi prendere cura poi dei figli, a doversi prendere cura della famiglia, riproducendo questi ruoli tradizionali anche all'interno del nucleo familiare. Negli ultimi mesi si è parlato anche di proposte del governo per bonus, oppure consentire alle donne e agli uomini ovviamente, ai genitori, di avere il nido gratis per il secondo figlio. Queste misure in qualche modo possono essere utili? Partendo dall'idea che tutto è utile, in realtà ci sono dei contesti virtuosi, penso per esempio alla città di Mantova che per prima ha attivato questo tipo di servizio, ma anche alla città di Varese, giusto per fare 2 esempi, in cui i comuni riescono a garantire il servizio gratuito a tutta la cittadinanza al di là del posizionamento dell'ISEE. Quindi questa direzione diciamo più estesa possibile effettivamente è positiva da questo punto di vista. I bonus ci sono, cioè per esempio anche l'assegno unico come entrata per le famiglie, per i genitori. Assegno unico che nel 2022 mediamente ha assegnato 146 euro al mese per figlio. Un investimento forte in termini di aumento di questo tipo di sostegno alle famiglie, per esempio, potrebbe essere una direzione.